La parola murgia significa pietra. Pietra è la parola che meglio parla di questo nostro pezzo di Puglia. La pietra ricopre i nostri campi, puntellandoli di bianco fino all'orizzonte. Di pietra sono fatti i nostri borghi, nel cuore delle città. E persino sotto i nostri piedi si srotolano alveari di pietra, cunicoli umidi e freschi che custodiscono segreti antichi. E le pietre, si sa, parlano. Volevamo la parola pietra nel nome del luogo che vi ospita, Borgo Murgia, appunto, perché per noi ospitare significa condividere radici e cultura. E qui, dalle nostre parti, sono prima di tutto le pietre a essere imbevute di radici e di cultura. Un po' di questa storia della nostra città e dei suoi abitanti vogliamo provare a raccontarla. Ci piacerebbe rendere vivi i muri che vi accolgono e parlante il profilo della città. Vorremmo regalarvi un'esperienza autentica. Quello che segue è un repertorio di spunti, aneddoti, pezzi sparsi di storia e di cultura locale. Vi racconterà di oggetti, luoghi, simboli significativi del nostro passato, ma ancora di più del nostro presente.